Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 19. Bene, andiamo avanti. E spero sinceramente che la mia pronuncia italiana gradualmente migliorerà. Noi siamo gli unici che fanno il movimento. Il movimento nel santo è la venuta spirituale che si chiude alla qualità della luce or. È una chiusura venuta tra il Cli che è stato creato e la luce or. Cli è la creazione creata per ricevere e la luce or. La è la qualità di dare. L'avvicinarsi del Cli alla luce è stato determinato attraverso la Kavanah, la santa intenzione, il movimento spirituale. Ora puoi vedere il modo di progredire, il miglioramento. Può essere fatto solo facendo uso della tua kavanah, la tua intenzione. La tua kavanah, la tua intenzione, non puoi comprarla in un negozio, né può esserti data da un amico come un regalo. È un duro lavoro. Ogni giorno devi avere la forza per questo Kavanah. La Kavanah che ti sta guidando alla luce. Tutti noi, l'intera umanità è nata con la qualità di ricevere. Siamo ricevitori. E ora tu inizi a lavorare opposto alla tua natura. Hai bisogno della forza, la Kavanah. La cavana giusta per venire in conformità con la luce. E per questo abbiamo bisogno della giusta cavana. Devi costruire la tua cavana per andare contro la tua natura. Il desiderio per ricevere dovuto alla ricezione è di venire in accordo con la luce che è eterna, immutabile. La luce viene a noi e questa luce ha anche un nome, Or Yashar. Luce diretta o luce che viene. Questo Or Yashar ti tocca quello che io provo di costruire a causa della mia limitazione. Cerca di capire il significato di limitazione. Per noi limitazione significa ho costruito la forza dentro di me per limitarmi. Abbiamo bisogno di forza per limitarci. Uno ha bisogno di forza per dire: io non ricevo, mi fermo con la ricezione egoista. Se puoi dire questo, significa che hai accumulato forza. Hai costruito il tuo massah, lo schermo sopra i tuoi organi di consapevolezza. Mi restringo per la luce che arriva. La luce del Bore, del Creatore. Non voglio fare uso di questa luce in modo egoistico. Quindi mi limito. Ora forse comprendi meglio la parola schermo, perché senti che c'è uno schermo dentro di te. Lasciatemi dare un esempio. Quando eri giovane, andavi in discoteca e ballavi e bevevi molto alcol. Ora sei più grande e hai lasciato questa esperienza dietro di te. Ora puoi limitarti. Non bevi affatto, o forse uno o due bevande alcoliche. Non hai bisogno dell'intera bottiglia, perché ora sai che domani avrai un post sbornia e non ne vale la pena. Sai come ti senti domani, come puoi essere disgustoso per te stesso e per gli altri. Sai quanto sarai depresso dopo aver bevuto troppo. Quindi puoi limitarti. Ora ne hai abbastanza e puoi goderti quei due o un drink è sufficiente. Hai costruito uno schermo contro la bevanda. Hai costruito una sorta di confine. Un punto in cui puoi dire è abbastanza. È lo stesso nello spirituale. Tutto viene dallo spirituale. Ciò che esiste proviene dalla stessa sorgente. Oryashar, la luce diretta, viene giù e ti colpisce contro il tuo massah, tuo schermo. Quando hai fatto una limitazione Tsimtsum, Oryashar colpisce il tuo massah. Hai fatto uno Tsimtsum perché Non vuoi ricevere in modo egoistico? Ma ori ashar. Il desiderio di ori ashar è quello di penetrare in te. Quindi spinge e spinge. Ogni momento, ogni minuto vuole penetrarti. Quando ti svegli domani, senti ori ashar spingere. Lo senti perché è Boré lui stesso, che vuole darci piacere. E tu hai fatto uno zimzum mediante il tuo cli, il tuo massach. Non mediante di Boré. È il Cli stesso che vuole venire in conformazione con la luce. Perché nella luce c'è un Cli. È un piacere più grande. Un'esistenza superiore dopo il desiderio di ricevere in modo egoistico. Quindi la luce vuole penetrarci. E questo è ciò che sperimentiamo ogni giorno ancora e ancora. Tutta la sofferenza. Tutta la tua miseria che viene è dovuta alla luce. La luce vuole penetrarci, e poiché non possiamo ricevere la luce, altrimenti, poi in modo egoistico sentiamo la miseria. Proprio come se avessimo una sbornia. E quando abbiamo questa sensazione, andiamo da una psichiatra o da un qualunque nome loro si conferiscono. Tutti noi sperimentiamo problemi. Alcuni di noi hanno stress, un esaurimento, eccetera. E questo è dovuto ad una ragione. Riceviamo in modo egoistico. O diciamo no, non voglio ricevere. Ho abbastanza. Ho già abbastanza miseria. E quando senti di averne abbastanza, dici di no alla luce. E per un cambiamento inizi a bere, a soffiare, a fumare, eccetera, eccetera. Queste sono limitazioni artificiali. Per favore, diventa consapevoli di questo. Uno può scappare via in un monastero o in qualsiasi posto solo per sfuggire alla vita. Uno fugge perché non ha il coraggio di scegliere per la vita. Ecco perché uno si limita e si ammala, sente lo stress, eccetera. E questo è tutto dovuto alla ricezione egoistica. costruisci il tuo basach. Ogni mattina, quando ti alzi, pensa riguardo al tuo masach. Sappi, la luce ti vuole penetrare. La luce vuole dare, ma noi non siamo capaci di ricevere tutto il piacere che lui ha per noi. È la mia mancanza. E provo. Ogni azione, ogni gesto voglio renderlo più intenso per ricevere di più, ricevere molta più luce. Così posso avvicinarmi alla mia realizzazione. Ecco perché all'inizio le persone sentono un'enorme pressione quando iniziano ad apprendere la Kabbalah. Ma arriva un momento in cui non possono fermarsi, non possono scappare via per il lavoro spirituale. Stanno costruendo il massah, sempre di più e sempre più in alto. Uno si sta portando più in conformità con la luce. E poi, improvvisamente, c'è meno luce. Uno è uscito dalla sua aura spirituale. La concentrazione è finita. E lui soffre perché non può ricevere. Sente la luce dall'esterno, ma allo stesso tempo conosce la luce. È lì per lui. Questa luce specifica vuole penetrare la sua anima specifica. E lui sa che la pressione sarà meno. La pressione è lì solo perché non è capace di ricevere la luce, perché lui ha ancora bisogno di correzioni. Lui sente Or Yashar, la luce diretta, che arriva al suo Masah. Il Masah che aveva fatto mediante la sua limitazione Tzimtzum. E ora è capace di riflettere questa Or Yashar. Riflettere significa sente la luce, sente la forza, anche se non lascia entrare la luce. Sa che non ha la forza per far lasciare entrare la luce. Questo riconoscersi di non avere forza, non aver prima la forza per ricevere la luce, è chiamato Tzimtzum, limitazione. Certamente ci sarà una domanda in te. Qual è lo scopo di questo Tzimtzum? Lo scopo è enorme, perché l'uomo è creato per ricevere, per godere e non per limitarsi, non per soffrire. Il creatore, Boré, vuole, è suo desiderio che saremo riempiti della luce completamente. Lui desidera riempirci con la luce fino all'infinito. E dobbiamo solo portarci in conformità con le sue qualità. Questo primo stadio della correzione è la creazione. Della limitazione dello Tsim Tsum. Questo primo stadio della correzione è la creazione della limitazione dello Tsim Tsum. Ma lo faccio solo temporaneamente, perché non ho la forza per ricevere ora. Ma benché mi limito, io ricevo una specie di piacere. È un altro piacere quando allora riceverei la luce diretta Oryashar. Oryashar è un piacere diretto. Un piacere meraviglioso, perché è la luce della vita. Quello che viene a noi viene da Oryashar. Prendiamo coraggio da questo Oryashar. Oryashar ci dice solo qualcosa su come la luce viene a noi. Oryashar ci dice solo qualcosa su come la luce viene a noi. Come la luce di creazione arriva al Kli in modo diretto. Ma non ci dice qualcosa circa la sua qualità. Quando parliamo di qualità, parliamo riguardo Or Hochma. Oryashar in qualità è Or Hochma. Non aver paura quando senti di perdere il filo. Or Chochmah è la luce della saggezza di vita. Or Chochmah è molto forte e potente. E a Or Yashar la luce diretta. Ma devi sapere che non possiamo ricevere questa luce in una forma pura. Ecco perché dobbiamo fare lo Tsim Tsum. Tsim Tsum significa che io posso riflettere un po' di Oryashar. È quella parte che rifletti riceve un nuovo nome, Or Hozer, la luce riflettente. Questo significa che ho costruito in me la forza per non ricevere Or Yashar. Il mio Or Choser è la reazione su Or Yashar. Or Yashar e Or Choser solo loro ci danno la direzione della luce. Or Yashar ci viene da sopra a sotto e Or Choser, la luce riflessa, va dal basso verso l'alto. Quando vogliamo dire qualcosa sulla qualità, usiamo altre parole. Or Yashar è in qualità Or Chassadim, luce di misericordia. Questa è la luce del dare. E Or Chochmah è la luce che dobbiamo ricevere. Da sopra a sotto questa Or Chochmah deve penetrarci. E Or Chassadim è la qualità del creatore Borè lui stesso. In un certo modo è la sua kavanah, la sua intenzione, il suo movimento interiore. Tutto il nostro lavoro è venire in conformità con la qualità di Borè. Lui ha l'intenzione, Kavanah, per dare. E noi dobbiamo arrivare, invece di essere una parte ricevente, diventare anche il dare. Cosa possiamo dare? Come possiamo dare? Tu non fai nulla. Tu fai la limitazione. Zimzum. Tu restituisci. Tu dai al creatore Borè per mezzo del tuo zimzum, invece di ricevere. Naturalmente questo zimzum è solo temporaneamente. È la sua kavanah che noi, la creazione, dovremmo ricevere la luce. E riceveremo. Ovviamente dobbiamo ricevere. Ma ci manca la forza, quindi dobbiamo riflettere la luce o riasciare. E più tardi, quando abbiamo la forza di ricevere in un modo corretto, con la giusta intenzione, Kavanah, per dare, noi possiamo e dobbiamo ricevere. Ti ricordi la storia dell'oste e del suo ospite? Or Chassadim, la luce della misericordia, ha un enorme piacere. Piacere per mezzo del Kli che sperimenta il dare. È lo stesso come nel nostro mondo. Ognuno di noi sa quanto sia meraviglioso dare. Ci sono persone che amano così tanto il dare. Possono dare via tutto. Ma come hai imparato? Ma come hai imparato? Devi sempre stare attento. Attento in cosa? In come tu dai. Per esempio, vuoi dare a una persona un regalo molto costoso. Perché vuoi dare un regalo così costoso? È per addolcire il tuo ego, o no? Essere molto attenti. Puoi dare questo regalo a qualcuno senza alcun significato del prezzo? Intendo dire, puoi dare perché è solo per dare. Solo allora sarà un vero regalo. E non solo per il ricevitore. Anche per te riceverai Or Chassadì. Stai sempre attento quando dai. Qual è la mia intenzione? Kavanah. Do questo regalo in un modo altruistico. O c'è nel profondo di me qualche piacere? Sto addolcendo il mio ego. Questo è il tuo lavoro. Questo è come costruisci il tuo schermo, tuo masach. Dare perché è il desiderio del creatore, Boré. Chiamiamo questo dare quel nome di paradiso. Ciò significa che ricevi solo Or Hasadim, altrimenti sarà molto egoistico. Prima noi abbiamo una limitazione, Tzimtzum, e di conseguenza costruisci lo schermo Massach. Dare per il gusto di dare. Cosa significa? Tu rifletti la luce. Ci sono tutti i tipi di gradini Madrigot nella luce. Tutti i tipi di gradi di Or Hozer. Dare per il gusto di dare. E la terza fase è venire alla fine, all'aspetto di ricevere per dare. Questo è la tappa della ricezione altruistica. Estensione della lezione 16. Or Yashar, Or Hozer, Or Chochmah, Or Chassadim. Luce di saggezza, luce di misericordia. Or Yashar, il ricevente. Abbiamo la ricezione inferiore, ricevere le cose perché vogliamo. Semplicemente averle, per lo più cose materiali. Or Hozer, luce di riflessione, limitazione. Ritorna come Or Chochmah, dare per dare. Questo è già un atto altruistico, ma c'è un aspetto più alto. Or Hasadim, ricevere per dare, dare altruistico e ricevere altruistico. Quello che stiamo facendo è venire in conformità con la lingua che stiamo ad usare. Quindi abbiamo bisogno della giusta intenzione, Kavanah in ebraico. La Kabbalah è una lingua santa. Abbiamo bisogno della giusta intenzione, la giusta Kavanah. È questa intenzione Kavanah nella santità e movimento spirituale. Stiamo facendo un movimento all'interno della santità. La santità e lo spirituale che vengono insieme per venire in conformazione con le sue qualità, per venire alla luce. L'avvicinamento tra il Cli, la creazione, che è creata per ricevere, e la luce, or che ha le qualità del solo dare. E questo ti porta tramite la via della Kavanah, l'intenzione, il movimento interiore. Ora sai come puoi andare avanti. Solo ed esclusivamente con la via della Kavanah. Non puoi andare in un negozio per comprare un chilo di Kavanah. Devi elevare la forza per compiere la tua propria Kavanah, per condurre la tua Kavanah nella direzione della luce, or. L'intera creazione è creata con la qualità per ricevere. Siamo tutti Kilim per ricevere la luce. E ora tu ti stai rendendo adatto per ricevere questa meravigliosa luce ora. E questo lavoro è veramente soprannaturale. Dobbiamo elevare la forza per la Kavanah per venire in conformità con la luce. La luce è immutabile, eterna. Siamo gli unici che possono e devono cambiare. Noi siamo gli unici che sono sulla strada. Or Yashar è la luce diretta e questo viene a te. Viene a te in quello che è il tuo Tzimtzum. Tzimtzum con il significato di: ho avuto la forza, ho limitato me stesso. Ho limitato me stesso per non ricevere in modo egoistico. Questo significa che sei andato oltre la tua consapevolezza. Oltre la tua consapevolezza hai costruito il Massah. E questo Massah trattiene la luce di Borè. Solo dall'interno puoi avere la sensazione di aver costruito il Massah. Ma ovviamente c'è il conforto, ma ovviamente c'è il confronto con questo mondo. Quando eri giovane bevevi molto, o in altre parole, non avevi il massaggio. Ma ora hai avuto l'esperienza, non bevi o almeno solo qualche drink. Significa che hai costruito il massaggio per il bere? Hai già avuto l'esperienza? Non hai bisogno di bere. Conosci il gusto dell'alcol? E per di più, conosci l'effetto di bere troppo? Era e non è buono per te o per il tuo ambiente. E ora hai costruito il massacro per l'alcol. Tu sei l'unico che decide dove è il limite, il momento in cui dici è abbastanza. È lo stesso nello spirituale, perché tutto viene dallo spirituale. La luce diretta, o Yashar, si scontra con il tuo schermo Masach, creato dal tuo Tzimtzum. Tu non ricevi la luce, ma la luce vuole penetrarti. Ogni giorno lo senti. Tu fai Tzimtzum, Masach, e la luce ti spinge, vuole penetrarti. Il desiderio della luce è di darci piacere. Quindi soffriamo e ci sentiamo sgradevoli perché la luce vuole penetrarci, mentre tu devi limitarti, altrimenti tu ricevi e quando ti manca la forza per ricevere, quando la forza ti sta mancando e ancora ricevi la luce, hai un grosso problema. C'è una legge universale. Ein obliqui. Significa che non c'è luce senza cli. Quando non c'è il cli, non ci sarà luce. Lo Tzimtzum era lì a causa del cli e non a causa della luce. Era il cli stesso che cercava di venire in conformità con la luce, perché c'è or dentro il cli. Or nel cli significa un piacere più grande, un'esistenza superiore, uno standard più elevato del ricevere, e non solo il ricevere egoistico. Quindi la luce or prova e cerca di penetrarci, così possiamo sperimentare questo. Ora abbiamo la ricezione egoistica o nessuna ricezione. ma qualunque cosa è, ti senti infelice, soffri e cerchi alcuni addolcimenti nell'alcol, nella droga, eccetera. In un certo senso sono tutte limitazioni artificiali. Anche andare in un monastero è un buon esempio. È una fuga di vita. Per non limitarmi. Ma poiché non vogliamo limitarci, non facciamo zimzum, ci sentiamo infelici. E questo è principalmente dovuto alla ricezione egoistica. Quando conosciamo la forza del Ma-Sa, diventa diverso. Ogni mattina, quando mi sveglio, devo affrontare il mio Ma-Sa. E Ma-Sa significa la misura in cui posso ricevere Oryashar. Nonostante Oryashar continua a spingere, ora so che non sono capace di ricevere tutta la luce. È la mia mancanza, quindi provo in ogni azione a moltiplicare la kavana, così sarò capace di ricevere la luce. Per venire più vicino alla mia realizzazione. Ora vedi perché c'è un'enorme pressione quando inizi a studiare la Kabbalah. Non puoi fermarti. Non puoi scappare via. E tu sai che questo è meraviglioso, perché ora puoi costruire altri tipi di masachim, il plurale di masach. Costruisci un masach superiore in cui sei d'accordo. E la conseguenza è che senti meno luce fuori di te. La luce sopra di te diventa meno e di conseguenza ne soffri di meno. C'è meno sofferenza nel non ricevere perché ora tu ricevi di più. Questa è la Kabbalah. Meno or rimane. Ma ciò che rimane è più concentrato, è specifico per la tua anima. La luce è in conformità con la luce, quindi senti meno pressione. Quando provi pressione è perché non puoi ricevere. E non puoi ricevere perché non sei stato corretto.